want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telespero. Buon pomeriggio da Gio Telesforo, puntata numero 82 del nostro soundcheck qui su Radio 24, che dedichiamo a una figura leggendaria della black music come George Duke, pianista, cantante, compositore, arrangiatore, eccellente producer discografico, uno dei pionieri del sintetizzatore, purtroppo scomparso nell'agosto scorso. George Duke si avvicina alla musica a soli 4 anni dopo aver visto con sua madre un concerto di Duke Ellington, e a 16 anni già famoso negli ambienti liceali per aver suonato in varie jazz band locali. Il suo talento musicale prende spunto proprio dai grandi artisti di quel periodo, che vanno da Miles Davis al pianista soul jazz Les McCann. Nel 67 si diploma al Conservatorio di San Francisco dopo aver studiato non solo pianoforte ma anche composizione, trombone e contrabbasso. Dopo il diploma fonda una prima band con un allora giovanissimo Al Jarreau, e inizia a farsi notare negli ambienti musicali importanti dopo aver partecipato a un'edizione del Newport Jazz Festival in compagnia del violinista Jean-Luc Ponty. Così iniziano le sue collaborazioni con gli artisti importanti, lavora con Quincy Jones, entra a far parte nella band di Frank Zappa, che lo richiede anche come cantante. Per la prima volta George Duke con Frank Zappa deve utilizzare anche la sua strepitosa vocalità, per poi approdare al quintetto di Julian Conobal Adderley sostituendo Joe Zawinul. C'è un tributo bellissimo prodotto da Tom Scott proprio per celebrare le vicende musicali di Julian Conobal Adderley, con la partecipazione di George Duke qui al Wurlitzer, Terence Blanchard alla tromba, Marcus Miller al basso elettrico e Steve Gadd alla batteria. Da questo Canon Reloaded George Duke interpreta Mercy, Mercy, Mercy qui al soundcheck di Radio 24. Sì, e qui George Duke celebra anche Joe Zawinul con questa composizione proprio del maestro Zawinul intitolata Mercy, Mercy, Mercy, brano che apparteneva al repertorio di Julian Conobal Adderley, che viene celebrato in questo album spettacolare di qualche anno fa, del 2008, prodotto dal sassofonista Tom Scott, intitolato Canon Reloaded. George Duke quindi inizia la sua grande carriera entrando a far parte di organici importanti, collabora con Miles Davis, per il quale scrive anche delle composizioni, lavora con la Mahavishnu Orchestra del chitarrista John McLaughlin, entra a far parte per un breve periodo dei Weather Report. Nel 1969 però incontra Frank Zappa e decide subito di entrare in questa strepitosa band che coniugava rock progressivo, jazz e altre influenze musicali, e lavora con lui proprio dal 69 al 1971, continuando anche a suonare jazz in band importanti come quella della vocalist Nancy Wilson, Joe Williams e Dizzy Gillespie. Oggi parliamo di George Duke al soundcheck di Radio 24. Do tocco inconfondibile sul Rhodes Fender e la voce di George Duke in questo classico di Duke Ellington intitolato In a Mellow Tone. Oggi parliamo qui al Soundcheck di questa leggendaria figura della black music di tutti i tempi, purtroppo scomparso nell'agosto scorso. George Duke è stato un musicista importante anche per la diffusione del jazz rock negli anni 70, mettendo su band importanti con il bassista Stanley Clark oppure con il batterista Billy Cobham, con il quale realizza anche un bellissimo album dal vivo nella metà degli anni 70, dove fa la sua apparizione anche un chitarrista giovanissimo chiamato John Scofield. George Duke ha prodotto artisti di fama internazionale, fra i quali vorrei ricordare Anita Baker, Michael Bolton, George Benson, lavora con Didi Bridgewater, produce Ricky Lee Jones, John McLaughlin, Natalie Cole, Al Jarreau e Stevie Wonder, e soprattutto è ricordato anche per essere stato un eccellente talent scout. Infatti, proprio nelle band di George Duke appare una giovanissima vocalist americana chiamata Rachelle Ferrell, che qui ascoltiamo proprio da un album di George Duke di diversi anni fa in un brano dal titolo Is Love Enough. George Duke e Rachelle Ferrell qui al Soundcheck di Radio 24. Oggi stiamo ricordando al Soundcheck di Radio 24 la figura di George Duke, meraviglioso musicista, uno dei grandi artefici della black music di tutti i tempi, 45 anni di carriera e 40 anni di carriera vissuti insieme a sua moglie Corinne, e lo ha accompagnato in tutte le tournée internazionali. Purtroppo le condizioni di salute di sua moglie Corinne si aggravano nei primi mesi del 2013 e perde la vita a causa di un cancro. Così George Duke entra in studio malato anche lui, ma riesce a ultimare questo album Dreamweaver, e soltanto pochi giorni dopo la pubblicazione di questa nuova produzione anche George Duke, all'età di 67 anni, il 5 agosto del 2013 scompare a causa di una leucemia fulminante al St. John's Hospital di Los Angeles, lasciando però in eredità a tutti noi una produzione vastissima che spazia dal jazz al jazz contemporaneo fino al rock e all'R&B di oggi. George Duke qui al Soundcheck di Radio 24 da questo ultimo album intitolato Dreamweaver, in una sua composizione dedicata a sua moglie Corinne intitolata Trippin', brano molto romantico ma molto interessante. George Duke al Soundcheck. Chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck dedicato a George Duke con una sua performance live con la partecipazione del contrabbassista Christian McBride. Sì, è uno dei pochi artisti che non sono riuscito a incontrare, non sono mai riuscito a vederlo dal vivo, e quindi gustiamo questa performance realizzata nel 2002 in un bellissimo club di Los Angeles, dove viene fuori tutta la passione per il funk di questo colosso della black music. A tutti voi buona giornata e buona musica da Gio Gio. Restate in contatto qui su Radio 24. George Duke, The Black Messiah. Soundcheck. Il suono della musica.